Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, già i nostri GR vi hanno ricordato di Standard & Poor's, agenzia di rating, una delle tre, che ha detto attenzione all'Italia, alla manovra, resta la possibilità che venga tagliato il voto dell'Italia ed è in questo momento al 30%, cioè una possibilità su tre. Ha detto Standard & Poor's, restano nonostante la manovra sostanziali rischi per il piano di riduzione del debito, principalmente a causa della debole crescita. Devo dire che l'agenzia però ha apprezzato le misure per contenere gli aumenti salariali nel settore pubblico, il blocco degli stipendi della pubblica amministrazione e la spesa pensionistica, però avverte il governo rischia di essere troppo ottimista sull'efficacia delle misure contro l'evasione fiscale, il che tradotto significa sostanzialmente il governo rischia di sovrastimare quella che è l'entrata in cassa dovuta alla lotta all'evasione. Ancora parleremo di questo nella seconda ora del programma, sia come commento sulla manovra sia come commento sulle agenzie di rating. Come va la borsa? La borsa va bene grazie di nuovo ai bancari che, dopo l'accordo, soprattutto oltre al passaggio parlamentare ad Atene, in cui è stato varato il piano di lacrime e sangue, è a influenzare i titoli bancari di nuovo oggi è l'accordo raggiunto in Germania su base volontaria che farà sì che le banche tedesche si accolleranno circa 3 miliardi e 3 di debito greco su base volontaria. Accordo annunciato ieri da Angela Merkel, continuano a beneficiare, dicevo, i titoli bancari, più 1,40% Milano, più 0,50 Parigi, più 0,50 Francoforte e più 0,70 Londra. Milano è in effetti la borsa più forte oggi in Europa, perché da noi le banche pesano di più, sia in un senso che nell'altro, sia quando cala che quando cresce. La Popolare di Milano, nel caso specifico, guadagna l'8%, il Monte dei Paschi 6,80, Unicredit il 4,40, Intesa San Paolo il 3,20, Mediobanca il 2,60, Ubibanca più 2,40%. Chiudiamo con Generali più 1,90 e il Banco Popolare più 1,80%. Bene anche Buzzi-Unicem più 2,60 e un titolo come Exor più 1,80%. Continua il recupero di Fondiaria Sai dell'1,8% a 2,78 euro per azione. Va male oggi Atlantia meno 2,80, Ansaldo STS meno 2,40, Fiat meno 0,60, Telecom meno 0,50, come Campari, Saipem perde lo 0,34%. In assoluto il miglior titolo è Terni Energia più 14,6% in questo momento e il peggior titolo è Gabetti Property Solutions meno 5,70%. Dicevo, la manovra finanziaria ma le agenzie di rating. In apertura invece ci occuperemo di Cina. Perché? Perché si è conclusa questa settimana il viaggio di Wang Jiabao, il numero uno cinese, in Europa, Gran Bretagna, e più che dire Europa, Gran Bretagna e Germania, soprattutto con la Germania, 15 miliardi di dollari di accordi commerciali con i grandi gruppi tedeschi. E Wang Jiabao, che è venuto anche a ricordare l'impegno cinese per il debito europeo, ha ribadito che la Cina è disposta a comprare debito europeo, in una Cina che però rallenta quanto a crescita. Ieri abbiamo giocato sulla principale economia del mondo nei primi tre mesi dell'anno, si chiama Turchia e non più Cina, è l'unica economia che cresce con un tasso doppio dell'11%. E la Cina sta rallentando, niente di grave, tra l'8 e il 9% della crescita economica attesa. Continuano a salire i prezzi relativi all'inflazione, addirittura l'alimento, uno degli alimenti più importanti in Cina, la carne di maiale, è aumentata del 70% in un anno. È come se da noi la carne normale, visto l'utilizzo che ne fanno i cinesi, la carne di manzo aumentasse del 70%. In un anno, con tensioni forti nel paese per un aumento salariale. E parleremo anche delle esperienze dei nostri imprenditori in Cina. Ci è arrivata una mail, infatti, obiettivamente, che fa cascare un po' le braccia, non tanto per l'esperienza in Cina quanto per l'incapacità delle banche italiane, o della banca in questo caso, di aiutare un imprenditore che aveva fatto un investimento importante in Cina. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo anche una brevissima parentesi sul caso della fabbrica di ieri che ha licenziato solo le donne, perché c'è scritto anche qui, ci hanno scritto molti imprenditori. Uno in particolar modo lo useremo come caso emblematico, che ha detto: guardate, noi abbiamo un'azienda di dimensioni simili, 30-35 dipendenti, ma abbiamo un approccio completamente diverso. Ed è giusto anche ricordare questo. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo rapidamente le altre notizie in breve. Oro fermo sotto i 1500 dollari l'once a 1498, petrolio anch'esso in calo a 94 dollari al barile, ma oggi torna a aumentare la benzina in Italia. Ricorderete, tre giorni fa 4 centesimi di euro di accise per trovare le risorse per il sbarco dei clandestini, degli extracomunitari, dei profughi sulle coste italiane. Oggi un centesimo in più perché serve per finanziare il FUS, il Fondo Unico sullo Spettacolo. E quindi nuovi rialzi sulla rete dei carburanti, la media per la benzina va da 1,578 euro per gli impianti Esso a 1,590 euro per gli impianti Shell. Questo, diciamo, nella modalità non self service. I no logo hanno prezzi obiettivamente più bassi a 1,502 euro. Per il diesel si va da 1,457 euro dell'Eni a 1,475 euro degli impianti Shell. E la Grecia dovrebbe ricevere aiuti complessivi fino a 85 miliardi di euro nuovi, che vanno a sommarsi a quelli dell'anno scorso, quindi complessivamente l'aiuto alla Grecia vale tra i 190 e i 195 miliardi di euro, lo ha anticipato oggi un funzionario del Ministero delle Finanze austriaco. Nel frattempo è calata la differenza tra quanto rendono le obbligazioni greche e quanto rendono le obbligazioni tedesche, usate come riferimento, ma non solo quelle greche, anche il Portogallo e anche l'Italia e anche l'Irlanda e la Spagna. I BTP sono scesi dopo aver toccato in settimana i 220 punti, cioè il 2,20% di differenza con quanto rende il BTP tedesco, sono scesi all'1,80%, in calo anche gli altri spread, come si chiamano in gergo. La disoccupazione sale a maggio, ahimè, all'8,1%, e quindi sale rispetto all'8% di aprile, è in calo però rispetto al maggio 2010, quando era all'8,6%, mezzo punto percentuale di calo. Il numero dei disoccupati torna però a maggio sopra i 2 milioni, 2 milioni e 11 mila per la precisione. Diminuisce la componente femminile dei disoccupati, aumenta quella maschile, salgono di 140.000 persone in più i cosiddetti NEET, cioè quelli che non lavorano e non studiano né fanno formazione. Il dato, infatti, pur essendo, diciamo, in chiaro oscuro, perché ripeto, è una disoccupazione più bassa rispetto a un anno fa e un po' più alta rispetto a un mese fa, conferma però che il grosso della disoccupazione si sta scaricando sui giovani. È salita quasi al 29% il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni. E poi la vicenda del contratto firmato anche dalla CGIL, che dà più potere, diciamo, al contratto aziendale, riconosce e ristabilisce le linee per la rappresentanza sindacale, cioè se si firma un contratto va rispettato e se è firmato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali. Perché lo dico? Perché oggi il presidente di Federmeccanica, Pierluigi Ceccardi, dopo aver ricordato che le imprese da sole non ce la possono fare perché pesano deficienze strutturali che non permettono alle imprese italiane di confrontarsi ad armi pari con i concorrenti, ha definito storico l'accordo firmato martedì sera, quello che ha rimarginato la ferita del 2009. e quando la CGIL non firmò l'accordo sul maggior peso della contrattazione aziendale. E ha detto Ceccardi, che è presidente di Federmeccanica, quindi raggruppa tutte le industrie metalmeccaniche, quindi anche la Fiat: oggi non possiamo che dirci soddisfatti, non condivido la lettera di Sergio Marchionne, ma sono fiducioso che la situazione con la Fiat possa rientrare. Lavoreremo per tenere la Fiat in Confindustria. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, primo tema, è un po' che non ne parliamo, è l'economia più importante no, che c'è ancora l'America, però più forte quanto a crescita a livello mondiale, da lì e dall'India e dal Brasile arriva tutta la ripresa che c'è a livello mondiale. E allora facciamo il punto sia sui rapporti Cina-Europa, visto che si è concluso il viaggio del premier Wang Jiabao, sia sulle tensioni interne alla Cina e sulle difficoltà dei nostri imprenditori alcune volte a produrre in Cina. Dicevamo, il punto sulla Cina, la mitica Cina, visto che un po' che non ne parliamo e visto che si è conclusa questa settimana la missione, la visita ufficiale, diplomatica ma anche commerciale del numero uno cinese Wang Jiabao, prima in Gran Bretagna con David Cameron, poi in Germania con Angela Merkel. E dalla Germania sono arrivati gli accordi più importanti, 15 miliardi di dollari di contratti che hanno riguardato i principali gruppi tedeschi, ma anche l'annuncio che la Cina continuerà e potrebbe continuare ad acquistare debito sovrano europeo, quindi debito dei paesi europei. Ricordo che la Cina ha già una fetta importante del debito europeo, ha il 7% del debito europeo, ma se si guarda l'Italia, come ha scoperto l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, si arriva al 13%, percentuali vicine superiori al 10% da quello che ci risulta anche per quello che ha a che fare con la Spagna. Allora iniziamo a fare il punto sulla Cina innanzitutto con Alberto Forchielli, che è presidente dell'Osservatorio Asia. Dottor Forchielli, buonasera. Buonasera. Un viaggio che ha tagliato fuori l'Italia, quello di Wang Jiabao, ma non solo, c'era già stato in Italia due settimane fa quello che è visto come il futuro leader cinese. Ma insomma, al di là del fatto che la Germania sia la testa di ponte più forte, che cosa l'ha, nei confronti della Cina, che cosa l'ha impressionata di questo viaggio di Wang Jiabao? I 15 miliardi di dollari di accordi con la Germania, che sono praticamente la manovra finanziaria, o il fatto che lui abbia dato la massima disponibilità a comprare ancora debito europeo, tranquillizzando in giorni non facili anche un po' i mercati? Mi ha impressionato come è stato ricevuto in Germania, con tutti gli onori, insolito, c'erano stati screzi sugli intellettuali che erano stati imprigionati, che sono stati liberati alla vigilia del viaggio, già questo era un segnale che buttava bene. Wang Jiabao cercava in Germania tre cose: la prima, la fine dell'embargo militare europeo verso la Cina, che è un fatto più simbolico che sostanziale, cercava il riconoscimento della Cina dall'Unione Europea come economia di mercato, cosa che la Cina non ha, e cercava dalla Germania in particolare l'apertura del paese agli investimenti cinesi, cosa che su cui il paese è stato molto chiuso. E ha avuto una risposta importante dalla Merkel, un sì su tutti e tre i fronti. La cosa è significativa, diciamo che era scontata. In più ha portato quest'ennesimo messaggio di disponibilità cinese a investire nell'euro, che anche questo andava nella direzione che noi ci aspettavamo. L'Europa è di gran lunga il primo mercato per la Cina, dopo il calo dei consumi americani, il calo delle importazioni americane. La Germania è il più importante paese europeo, cioè la spina dorsale dell'Europa. Chiaramente Wang Jiabao e la Cina tutta sono interessati a sostenere l'euro per continuare ad esportare e a sostenere l'euro per fare dell'euro un sostituto del dollaro in previsione di uno spostamento di parte delle riserve da dollaro verso euro. Quindi l'euro forte è nel massimo interesse della Cina in un momento in cui vede i propri costi salire in modo importante. Per quel che riguarda la sottoscrizione del debito europeo, credo che i cinesi, secondo stime nostre, abbiano il 10%, ed è possibile che siano disposti ad aumentare. Sono poi dichiarazioni, perché aveva anche dichiarato mesi fa che avrebbe sostenuto il debito greco, cosa che poi i cinesi non hanno fatto. Li Keqiang aveva sostenuto che avrebbero sostenuto il debito spagnolo, cosa che poi non è avvenuta, ci sono stati screzi. Per cui da questa affermazione poi la parola passa ai tecnici. La Banca Centrale Cinese è a fior di tecnici e le decisioni poi vengono prese in base al rischio, in base alla liquidità, quindi bisogna poi vedere come ci si muoverà dopo. La Cina in questo momento è in una fase di rallentamento della crescita, l'indice manifatturiero ieri uscito è stato più basso degli ultimi 2 anni. L'inflazione, per quanto si dichiari ufficialmente che è stata arrestata, continua a tassi dal 5 al 6% e si pensa piuttosto che abbiano rinunciato a lottare contro l'inflazione, perché la stretta monetaria è stata molto importante e sta gelando la crescita, e soprattutto molte piccole imprese, piccole e medie imprese sono in condizione finanziaria abbastanza precaria, perché non riescono a ottenere credito al sistema bancario. Il costo del denaro sta andando alle stelle, l'interbancario al 9%, una cosa del genere non si era mai vista, per cui è un momento di incertezza anche per l'economia cinese. Crescerà sia al 9%, comunque più basso della media degli ultimi anni, e se continua di questo passo l'anno prossimo facciamo un 7 o un 8. Ecco, tra l'altro noi stiamo parlando nel giorno in cui, in concomitanza con il 90° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, è stato inaugurato il nuovo collegamento veloce tra Pechino e Shanghai, no? Con due treni, uno che fa i 300 km orari, l'altro i 250, praticamente o in 5 ore o in 8 ore. Cos'è, Maglev sempre come treno? No, è un treno. È un treno cinese, diciamo, ma i componenti critici sono tutti solo tedeschi. Europei. Mm-hmm. Tedeschi. Ecco, tedeschi e francesi. I prezzi, devo dire, assomigliano a quelli italiani: 56 euro per andare in seconda classe, 95 euro in prima classe e 180 euro in business class, che è chiaramente ancora più alta in questo caso della prima. Tra l'altro nel Guangdong c'è stata una rivolta che è andata avanti per settimane, c'è una tensione anche sui prezzi e sui salari, ed è su questo che vorrei chiudere con lei, Forchielli, intanto per adesso. E cioè, lei si aspetta che le tensioni sui prezzi e sui salari in Cina continuino ad aumentare? Il Guangdong, che è una delle regioni più industrializzate del paese, è cresciuto negli ultimi 5 anni a una media del 12,5% annuo e da sola rappresenta l'11% del PIL cinese, un terzo di tutte le esportazioni. Però, insomma, scioperi nella fabbrica della Honda, al di là del caso della Foxconn, dove vengono prodotti tutti i computer del mondo, 300.000 di operai lavorano lì. Insomma, a Meishan, a Xintang, a Lichuan, ci sono tensioni anche sul fronte salariale? Sì. Tutti si aspettano che la conflittualità aumenti in Cina. Ci sono tensioni salariali perché la manodopera non è più disposta a spostarsi, per cui il Guangdong, per esempio, è a corto di manodopera. Quindi ci sono tensioni salariali che il governo, d'altro canto, non spegne, perché se devono smettere di investire tanto, devono incominciare a consumare, qualcuno dovrà guadagnare di più. Per cui è ovvio che per spostare l'economia dagli investimenti ai consumi bisogna aumentare i salari. Quindi il governo non fa granché per sopire le rivolte, gli scioperi, e d'altro canto un anno fa è uscito con una legge, diciamo uno statuto dei lavoratori abbastanza importante a tutela dei lavoratori. Quindi la conflittualità sindacale no problem, invece la conflittualità che crea problemi è quella periferica, quella contro la corruzione, contro gli abusi di potere, contro gli espropri. Ecco, questa preoccupa di più, perché non ci sono meccanismi di controllo, non ci sono meccanismi di bilanciamento, e è sempre più frequente. un paese che spende, la Cina è un paese che spende più in sicurezza interna che in difesa, per esempio. È un paese che si sta preparando a fronteggiare anni di duri conflitti. Beh, devo dire che è un tratto abbastanza comune alle non democrazie. La Cina, con tutto quello dei meriti che può avere, resta una non democrazia. C'è chi la chiama oligarchia, chi la chiama dittatura del partito, insomma, tutto è tranne che una democrazia, come abbiamo visto sia con i dissidenti, sia con quello che è successo con gli avvocati, lo dico per inciso, minacciati gli avvocati che difendono i dissidenti, anche picchiati, torturati, incarcerati, quindi questo va detto sempre, anche se parliamo di economia. Posti sempre, quando parla di queste cose, una cosa parla di Pechino, una cosa parla dei governi locali, queste cose, le persecuzioni degli avvocati, questo tipo di cose avvengono, sono generalmente per mano dei governi locali, sono contrastate da Pechino. No, non dobbiamo mai commettere l'errore di pensare che quel che vuole Pechino viene automaticamente implementato e che ci sia un asse perfetto tra i governi locali e il governo centrale. Il governo centrale vorrebbe una Cina diversa, è che in periferia a 2000 chilometri o a 1000 chilometri l'atteggiamento non è esattamente quello che Pechino vorrebbe. Beh, interessante Forchielli questa precisazione. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento da Shanghai e grazie anche per l'ora notte fonda, una vecchia conoscenza di Radio 24, Saro Capozzoli, fondatore e amministratore delegato della Jesse Investment in Cina da oltre 20 anni, aiuta le imprese italiane a produrre in Cina. Buonasera Capozzoli. Buonasera. Buonanotte vista sì, l'ora. Buonanotte, sì. Fra un po' buon'alba. Allora, intanto sentivo quello che diceva Forchielli poco fa, vorrei capire una cosa però in tema di costo della vita, poi arriviamo alle difficoltà delle nostre imprese, ma risulta anche a lei, perché abbiamo visto le notizie un po' strane, il più 70% nel costo del maiale. È vero che del maiale non si butta via niente e che il maiale è il piatto principale, alimento essenziale della cucina cinese. Sì, c'è anche, l'Italia non scherza, sì, è vero, più 70%, però bisogna vedere da dove si parte, perché col prezzo del maiale che c'era prima non si riusciva a sostenere una catena alimentare, igienico, diciamo, a portare appunto il maiale in macelli strutturati con controlli diciamo veterinari eccetera adeguati per rispondere alle esigenze di sanità. No, col massimo rispetto per il maiale, però a me interessava capire un'altra cosa, cioè questa tensione sui prezzi, sì, che poi si scarica in richieste salariali come ricordava Forchielli poco fa, la vedete anche voi abitando lì, cioè sia sui prezzi del costo della vita sia sui salari poi dei dipendenti? Sì, c'è una tendenza ad aumentare i prezzi, ma anche perché c'è una pressione anche nell'aumento degli standard produttivi. Stavo dicendo, quando si deve importare dalla Germania o dall'Olanda un macello, che io ho visto macelli che macerano anche 1000 maiali all'ora, e c'è una società in Cina che macella 300.000 maiali a settimana, per dire, hanno bisogno di tecnologie costose che con i prezzi della carne che c'erano quando poi il maiale veniva macellato mezzo a strada e portato sul mercato, non riescono a sostenere questi costi per garantire la sicurezza sanitaria. Io parlo anche del latte, parlo anche del yogurt, parlo di tutto, quindi c'è rispetto diciamo a prima c'è un aumento del prezzo, ma c'è un adeguamento al prezzo diciamo globale complessivo, che il costo che deve avere un prodotto per poter essere garantito come sicurezza alimentare sanitaria. 300.000 maiali a settimana? No, c'è una società, il primo produttore cinese che è statale, macella 300.000 maiali a settimana, ma qui sono alcuni numeri normali. Cioè, 40.000 maiali al giorno? Sì, sono strutture molto grandi, ovviamente sono più strutture, non un solo impianto. Diciamo che stiamo parlando di un paese con 1 miliardo e 300 milioni. No, no, ma mi fa impressione che sono circa 2000 maiali all'ora macellati, una cosa impressionante. Sì, comunque sì, no, vabbè, al di là adesso non vorrei fare la puntata sul maiale, anche perché ci sono altri programmi che si occupano. L'adeguamento tecnologico porta comunque all'aumento dei prezzi e ha una, io direi anche comunque finalmente che si cominciano a rendere conto che la sanità e la sicurezza certo alimentare costa. Ma quindi lei mi sta dicendo che tra l'altro la Cina è importatore netto di carne, maiale e manzo? Importatore sì, dall'Argentina, tant'è vero, specialmente da Sud America, anche dall'Australia, e addirittura ha fatto un accordo con l'Argentina per pagare in valuta locale, in renminbi, lo yuan cinese e le importazioni di carne, un accordo specifico fatto 2 anni fa. Certo. Per bypassare il problema del dollaro, no? Cioè, non si usa più il dollaro, ma c'è uno scambio, tu mi dai maiali, io ti do o i manzi e io ti do i computer e tecnologia. Bellissima. Bellissima, cioè lo scambio è tra il maiale e il manzo e l'alta tecnologia cinese. Sì, è così. Col Cile, ad esempio, ci sono accordi per importare carbone, minerali e dall'altra parte è anche cioè, il problema alimentare è molto importante. Senta che rumore pur essendo. Sono in mezzo alla strada, questo immaginavamo che non fosse casa sua. No, visto il rumore di fondo. Allora, adesso invece vorrei leggervi che cosa è successo con una lettera che è, a mio avviso, molto emblematica, e poi dopo il metro della pubblicità Capozzoli magari me la commenta. Ci ha scritto un ascoltatore, non leggo il nome perché non gli abbiamo chiesto la liberatoria, però insomma c'è nome e cognome e dà tutti i documenti in allegati. Dice: abbiamo cercato di fare innovazione aprendo un'agenzia di marketing e uno showroom a Shanghai per le piccole e medie imprese italiane, un suo concorrente Capozzoli, offrendo loro tutte le soluzioni in modo da affrontare un mercato difficile ma non impossibile. Vabbè, i costi erano elevati, abbiamo avuto diverse adesioni ma avevamo dei costi elevati, abbiamo chiesto un aiuto alla banca, un sostegno bancario. Allora, abbiamo chiesto un finanziamento di 150.000 euro. Fidi Toscana, l'ascoltatore è toscano, garantiva 100.000 euro e una loro banca consentiva l'operazione. Io leggo testualmente: tra una storia e l'altra, ricattino su ricattino, arriviamo alla chiusura dell'operazione dopo circa 8 mesi. In questi termini, la banca pretende obbligazioni vincolate alla durata del finanziamento pari a 40.000 euro. Era un finanziamento di 50.000 euro. 100.000 erano già garantiti. Obbligazioni vincolate alla durata del finanziamento pari a 40.000 euro. Operatività ridotta del 50% e riduzione dello scoperto, pensate un po', a 5.000 euro. Ora, uno che deve fare un'operazione del genere e ha uno scoperto di 5.000 euro, e vabbè. Non basta, perché poi alla firma, racconta l'ascoltatore, ci presentano una scatola di fogli da firmare e fidandoci abbiamo proceduto con celerità. Casualmente leggo una cifra, 300.000 euro ed oltre. Chiedo lumi, avevo già firmato perché si andava, come dicevo, sulla fiducia. La risposta è stata che per accedere al finanziamento dovevamo garantire a titolo personale per quella cifra. Il bello è che nessuno ci aveva informati, anche perché ci sono le garanzie di Fidi Toscana, i soldi delle obbligazioni e tutta una serie di altre clausole che non sto a elencare. Quindi ci hanno fatto arrabbiare e abbiamo interrotto l'operazione. Quindi questo imprenditore deve aprire a Shanghai, chiede 150.000 euro di finanziamento, 100.000 euro gli dà Fidi Toscana, la banca da cui è assistito deve mettere 50.000 euro, gli chiede 40.000 euro di obbligazioni vincolate alla durata del finanziamento, operatività ridotta del 50%, lo scoperto ridotto a 5.000 euro, come se non bastasse anche 300.000 euro di garanzia a titolo personale. Oh, se questo è il modo di far credito e gestire il credito, auguri. Il suo commento, Capozzoli, dopo il metodo e la pubblicità. ...17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora vorrei sapere, partendo anche dalla lettera di questo ascoltatore, quali sono le difficoltà che le piccole e medie imprese italiane continuano a trovare in Cina. Devo dire una cosa, però molti ascoltatori dicono anche, abbiamo avuto la stessa esperienza con Eurofidi, con altre banche, a me per 3.600 euro hanno fatto la segnalazione sul circuito bancario. Un ascoltatore scrive: evidentemente non sono solvibili, la banca non è un ente benefico, sapete quante sono le sofferenze e gli incagli. Avete ragione, cioè non abbiamo mai preteso che la banca diventasse un ente benefico, ma ci mancherebbe. Però voglio dire, se questa è una startup, in qualche modo, quindi una nuova iniziativa, bisognerà valutarla. Se poi non sei solvibile, non dare il prestito e basta. Quello che trovo strano è dire 100.000 li garantisce Fidi Toscana, gli altri 50.000, 40.000 compro obbligazioni vincolate, l'operatività ridotta del 50%, lo scoperto ridotto a 5.000 euro, e poi fai firmare 300.000 euro che l'ascoltatore dice essere aver firmato senza quasi accorgersene, di tra l'altro di garanzia a titolo personale per quella cifra. Ora, se uno non è solvibile, non gli fai firmare neanche quella, abbiate pazienza, gli dici no grazie, non sei affidabile, la banca siamo noi. Capozzoli, i problemi che incontrano tuttora le piccole imprese italiane in Cina? Ma io penso che il problema non è solo la Cina, ma in tutto il mondo. Purtroppo appunto le nostre aziende sono molto volte delle piccole aziende, e quello che noi è che sono la maggior parte dei nostri clienti. Quello che noi consigliamo quando col primo approccio, comunque prima di fare qualsiasi cosa in Cina, è di fare una pianificazione finanziaria, cercare di capire che qual è proprio il bisogno diciamo economico, perché molti iniziano, fanno anzi inizi con poco, vediamo, ecco, col poi vediamo, può, dato che molto spesso il business richiede degli anni, mesi, ma spesso 2-3 anni per poter essere, diciamo, per decollare, c'è, si va in sofferenza. Quindi diciamo è pensare ancora prima di approcciare la Cina, che richiede tempi un po' lunghi per poter appunto partire, e capire se è il caso di andarci o meno. Questo è il primo approccio. Seconda cosa, io direi di quello che si può consigliare è che ci sono banche che capiscono queste problematiche, e di parlare poi direttamente con i referenti delle banche che sono presenti in Cina. Cioè i managers, ci sono diverse banche presenti in Cina, sono 2 principali, 3 principali con diversi uffici di rappresentanza, e di farsi consigliare da loro come fare e se fare, senza passare dal... Quindi Cina su Cina, no Italia su Cina per il consumo. Perché io ho un'esperienza diretta, i managers delle banche che sono in Cina conoscono benissimo i problemi, mm-hmm. le problematiche, e sono secondo me i migliori consulenti mm-hmm. rispetto a queste problematiche, prima ancora di andare dal diciamo il procacciatore d'affari, l'intermediario che c'è appunto, o anche lo stesso sportello bancario in Italia, che tratta la pratica Cina come se fosse una pratica diciamo come le altre. Capozzoli, mi può dire per favore, lei se dovesse partire adesso per la Cina e non vivere lì da 20 anni, dove andrebbe? Perché ci dicono appunto, lo confermava anche Forchielli, Guangdong e alcune regioni molto industrializzate sono molto care anche come salari, come manodopera. Dove andrebbe e in quali settori vede le maggiori possibilità, le maggiori aperture, la maggiore domanda? Beh, dove andare dipende dal tipo di business, no? Questo signore che fa, mi sembra di aver capito, eventi, eccetera, certamente in grandi città come Shanghai, il quartiere dove ci sono molte aziende straniere, sono, diciamo, è il posto più indicato. Poi bisogna vedere le modalità. In questo momento c'è certamente una grande opportunità che si è aperta in Cina, che da diversi anni sono le città interne alla Cina, quelli diciamo che vanno da Wuhan dentro, Chongqing, che è una città di 34 milioni di abitanti, io chiamo le città del secondo e terzo livello, quelle che adesso toccando lo sviluppo che è arrivato già sulla costa, e qui ci sono molte più opportunità, ma anche in termini di costi. Ad esempio, se io vado a fare una fabbrica, un'attività nello Sichuan, io ancora posso avere una tassazione del 15% rispetto al 25% che ho in altre aree, ci sono degli incentivi. Però, ripeto, sempre con un buon business plan fatto bene, considerando anche la fiscalità locale, e poi ci sono gli strumenti anche per poter avere delle facilitazioni. Lo Stato italiano ha sia la Simest che la SACE. Sì. La SACE, ad esempio, che a fronte di un business plan ragionato, fatto in una certa maniera, può dare una copertura, diciamo, una garanzia per poter poi accedere al credito bancario senza andare poi a toccare le proprie finanze, sì, le proprie garanzie. Ci sono degli strumenti, bisogna certamente dare gli strumenti alle aziende, alle piccole e medie aziende, mm-hmm. quindi dentro le associazioni industriali, le banche stesse, per indirizzare la piccola e media azienda, che purtroppo a volte prende parte e si ritrova poi a metà strada senza soldi. E lì sì, forse anche l'impresa che abbiamo citato poteva fare un passo sulla SACE, ma in realtà lei ha avuto un 100.000 euro di finanziamento su 150, ne mancavano 50.000. Grazie a Sauro Capozzoli. Adesso c'è il traffico e poi la borsa. Molti messaggi che sono arrivati sulla Cina. Sì, è innegabile che tutta quella che è la corona, o chiamatela come volete, la mezzaluna, che costiera, che va da Hong Kong, Canton, fino a Shanghai, è la parte più cara in questo momento, dove anche la tassazione è al 25%, nella parte all'interno, come ricordava Capozzo adesso, la tassazione è ancora al 15%, quindi dipende che attività uno deve sviluppare, se più su servizi o più manifatturiera, al traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso passiamo alla borsa e poi ai temi di casa nostra, ossia Standard & Poor's sul debito italiano e le agenzie di rating e il loro ruolo, ma anche la loro assenza di responsabilità, come dicono alcuni osservatori, cioè non vengono mai chiamate a rispondere dei loro giudizi. Andiamo con ordine alla borsa. Allora, la borsa, perché devo mettere il gallo? No, il gallo oggi proprio no. Va bene Milano, va meglio delle altre borse, più 1,60 Milano, Parigi più 0,60, Francoforte più 0,60, Londra più 0,66, l'America più 1%, non mi sembra da gallo, anche se il recupero dei bancari è stato molto forte. Popolare di Milano più 7,90, Monte dei Paschi più 6,12, Unicredito più 5,30, Intesa San Paolo più 4,20, Mediobanca più 3%, UbiBanca più 2,60, Generali più 2,30. Chiudiamo la pattuglia dei bancari con il Banco Popolare più 1,70 e ancora ne stavo cercando un altro ma non lo trovo. Chi va male oggi invece è soprattutto Atlantia meno 2,40, Ansaldo meno 2,20, Fiat meno 0,60, Campari meno 0,40%. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Di nuovo l'effetto accordo governo tedesco, banche tedesche sulla Grecia, accordo in Grecia? Esattamente, proprio questo è il tema, il via libera di ieri del Parlamento greco al piano di austerità che sblocca la tranche di aiuti da parte di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale e l'accordo delle banche greche che appunto allungheranno le scadenze sui titoli di debito greco in portafoglio hanno sostenuto anche oggi soprattutto il comparto bancario. C'è da sottolineare che per Piazza Affari si tratta della quinta seduta consecutiva di rialzo, quindi l'intera settimana è stata positiva per Milano e proprio oggi, come ricordavi anche tu, sono le banche che hanno trainato il listino, sono tutte positive. Quella che fa un po' meno bene delle altre, ma comunque un più 1,7, è il Banco Popolare, che risente in parte di alcune prese di beneficio, dato che ieri il titolo aveva già fatto bene sulla scia della presentazione del nuovo piano industriale. E vabbè, allora, visto che la quinta seduta di fila in rialzo, anche tu spingi per il gallo in maniera surrettizia, gallo sia. Vabbè, un venerdì col gallo non è male, era un po' che non lo vedevamo. Tra l'altro il miglior titolo oggi, Paolo Paronetto, è stato in realtà oltre ai titoli bancari, perché devo dire che i bancari anche in assoluto sono tra i migliori. La Banca Popolare dell'Etruria del Lazio ha guadagnato l'8%, e poi c'è la Pop Milano, Bene Terni Energia più 12,6%. Sì, la società in questo caso ha annunciato che nel secondo trimestre sono stati avviati 12 impianti fotovoltaici e ha avviato inoltre la realizzazione di altri 8 impianti. Sono quindi segnali, secondo gli analisti, che il business del gruppo procede nel settore delle rinnovabili, procede ed è in continua espansione, che questo dovrebbe avere un impatto positivo sui risultati, secondo gli analisti di mercato, che oggi hanno premiato il titolo che è stato il migliore, come ricordavi tu, dell'intero listino milanese, più 12,65%. CIR, qui ci sono ipotesi di stampa, comunque insomma la quota della CIR in Sorgenia, ne abbiamo parlato anche con Rodolfo De Benedetti proprio in un'intervista la settimana scorsa. CIR. Esattamente, il titolo ha guadagnato in chiusura l'1,62%, ci sono ipotesi riportate dalla stampa secondo cui gli austriaci di Fairbund sarebbero interessati a rilevare la quota di CIR in Sorgenia e secondo le analisi a caldo degli analisti è un'ipotesi giudicata improbabile ma che comunque può sostenere il titolo in borsa almeno nel breve periodo. È proprio quello che è successo oggi, il titolo è stato in rialzo fin dall'avvio nonostante le iniziali oscillazioni dei listini. Paolo, Mediaset ha sofferto per intere settimane, adesso però è un paio di sedute, forse anche tre, vado a memoria, che sta recuperando. Per carità, c'è stata la presentazione dei palinsesti, ma forse c'è un ragionamento un po' diverso che viene fatto. Sì, Mediaset infatti aveva sofferto molto, adesso sta recuperando, oggi ha chiuso in realtà... Beh, valeva, diciamo, lo dico così... Un anno fa valeva circa 6 euro per azione, adesso ne vale 4. Sì, infatti, anzi, adesso ne vale 3,27. Scusami, 3,27, l'ultima chiusura è 3,27. Sì. Oggi pure in recupero rispetto ai 3 euro a cui era scesa il 27 giugno. Sì, infatti. infatti comunque anche oggi il titolo ha fatto più 0,56, quindi è peggio del listino e per gran parte della seduta è stato negativo. Le ultime sofferenze del titolo vengono proprio dall'annuncio di un taglio delle stime sull'andamento del mercato della raccolta pubblicitaria del gruppo. Anche oggi alcuni analisti, in particolare quelli di Citigroup, parlano di una tempesta perfetta che è ancora in atto sul titolo Mediaset, partendo dal proprio debole andamento della pubblicità, l'aumento della concorrenza, una struttura di costi inefficiente e ovviamente anche le voci sul Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e sulla tenuta possibile o meno del governo, che hanno sempre un impatto su Mediaset in borsa. Ultimo titolo, Fondiera Sai, che non è un titolo, è un Magic Mountain, è un Luna Park, quello sale, scende con una rapidità da otto volante. Oggi l'abbiamo visto un po' più calmo, devo dire, perché ci ha abituato a ben altri andamenti e comunque in recupero più 2,27% a 2,80€. Esattamente, oggi è stato un recupero, si chiude la prima settimana di negoziazione dei diritti sull'aumento di capitale che è proprio partita in borsa lunedì, il titolo è stato sull'otto volante e ha alternato rally e successive scivoloni, i volumi rimangono alti, ricordiamo che sull'andamento del titolo ha acceso un faro anche la Consob che proprio intende capire se dietro questi movimenti c'è qualcosa di non corretto. Sì. Per quanto riguarda i titoli, oggi quelli sulla Fondiaria Sai hanno perso il 3% circa, quelli sulla Milano Assicurazione hanno invece guadagnato il 5%. Sì, tra l'altro anche qui do il raffronto con un anno fa il titolo valeva 4,70€ e quindi ha perso più di metà del suo valore, visto che vale 2,70€ adesso. Grazie a Paolo Paronetto. Il GR e poi la manovra italiana giudicata da Standard & Poor's, l'agenzia di rating, il commento e la richiesta che arriva da più parti che queste agenzie vengano responsabilizzate quando emettono giudizi. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, prima di passare al tema, all'altra notizia di oggi, il giudizio di una delle tre agenzie che danno i voti ai governi, Standard & Poor's, sulla manovra italiana, una notizia che è appena arrivata riguarda il mercato delle auto, i dati relativi a giugno. Dunque, il mercato complessivamente in Italia cala dell'1,70%, il gruppo Fiat perde il 4%, e va bene di nuovo Alfa Romeo, più 7,26%, male Fiat come marchio, meno 6,60%, Lancia più 4,28%. Devo dire bene anche Ford, meglio della media del mercato, più 2,90%, Citroën invece peggio, meno 5,81%, li sto leggendo assieme a voi, Toyota meno 21%, Volkswagen meno 5%, ancora Renault meglio della media, meno 0,2%, Peugeot meno 14%, molto bene la Opel, più 11,80%, tra i marchi del lusso Mercedes meno 5%, BMW meno 2,60%, e quindi ancora una volta si conferma nel caso Fiat, ma non solo, che quello che contano sono i modelli, abbiamo detto con una battuta a Sergio Marchionne, oltre che i modelli contrattuali. Adesso la Fiat deve occuparsi anche dei modelli di auto tout court. Dicevo, al di là delle immatricolazioni, oggi giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's, la prima delle tre agenzie a esprimersi sulla manovra licenziata ieri dal Consiglio dei Ministri. Tra l'altro il Presidente del Consiglio ha detto che porrà la fiducia in Parlamento sulla manovra, una battuta sui SUV, ha detto insomma ho dovuto cedere dopo una lotta ostinata a una sola cosa che è contro il nostro programma elettorale, il bollo sui SUV, Giulio Tremonti mi ha ricattato con un ragionamento ficcante. E poi Berlusconi ha ricordato come comunque gli interventi in finanza pubblica di questa manovra siano stati molto più leggeri rispetto a quelli effettuati da altri paesi. Noi siamo riusciti a fare meglio degli altri. Siamo riusciti in una situazione difficile a non dover assumere nessuna delle misure che tutti gli altri paesi europei, chi più chi meno, hanno assunto. Tra queste misure vi ricordo il licenziamento di molti impiegati pubblici, la riduzione in certi paesi anche del 25% degli stipendi degli impiegati pubblici, la riduzione della cassa di integrazione nel suo totale e nei contributi dati a chi perdeva un lavoro, noi abbiamo fatto esattamente il contrario, l'aumento dell'IVA anche di 6 punti, l'aumento dell'età per poter andare in pensione, la diminuzione degli stanziamenti per la sanità, la diminuzione per gli stanziamenti per province e comuni. Bene, noi tutto questo l'abbiamo evitato. Di nuovo invece replica il leader del PD Bersani, si buttano in giro specchietti per le allodole come i SUV e altre cose simpatiche, ma questa è una botta micidiale. Vasco Errani, presidente invece della conferenza delle regioni, oltre che governatore dell'Emilia-Romagna, ha detto: è un colpo pesantissimo ai deboli, serve una verità, è un intervento insostenibile per i cittadini. E questo è il fronte politico. Oggi invece, dicevo, Standard & Poor's è tornata a dire che restano sostanziali rischi per il piano di riduzione del debito, principalmente a causa della debole crescita, e quindi ribadendo che le possibilità che venga tagliato il voto al nostro debito sono 1 su 3, ha apprezzato le misure per contenere gli aumenti salariali nel settore pubblico e la spesa pensionistica contenute nella manovra correttiva, ma il governo, dice Standard & Poor's, rischia di essere troppo ottimista sull'efficacia delle misure contro l'evasione fiscale e un lungo stallo politico potrebbe contribuire a far sforare i conti pubblici. E ieri uno studio sottolineava come nei prossimi 2 anni scade il 40% del nostro debito pubblico, ma i tagli più consistenti della manovra partono solo dal 2014. In effetti la manovra è strutturata per avere 2 miliardi quest'anno, 5 l'anno prossimo e poi il resto, cioè 32-33 miliardi, tra il 2013 e il 2014. Allora, per parlare di manovra, ma anche di queste benedette o maledette agenzie di rating, torna uno spettro che si aggirava tempo fa per l'Europa. Giulio Sapelli e la sua mole, eccoli tornati a leggiare anche in questo programma. Insegna storia economica alla Statale di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Professor Sapelli, buonasera. Buonasera, anche se siete un po' birichini, ma però... No, vabbè. Bellissimo, bellissimo, grazie. Allora, lei è riatterrato tra noi per commentare, sì, da un lato la manovra economica, abbiamo avuto tanti ospiti in questa settimana, dall'altro poi invece le agenzie di rating, dove un suo collega... Sì. Jean-Paul Fitoussi, lunedì in questo programma, ha sparato ad alzo zero. Ma andiamo con ordine, la manovra. Sì. Beh, la manovra devo dire che è abbastanza inesistente, perché anzitutto una manovra che di fatto parte nel 2014, perché 2000 miliardi, sì, 2013. Poi, sì, diciamo del 2013, è una manovra che doveva partire subito. È impressionante sentire l'elenco delle cose che non sono state fatte. La prima cosa che andava fatta era un drastico taglio del carico fiscale. Non può crescere nessuna economia con un carico fiscale superiore al 40%. Qualsiasi impresa sa che è ben superiore, e anche sui cittadini. Bisognava detassare subito il lavoro del paese e fare dei tagli non lineari ma selettivi. Quindi è una manovra gravemente insufficiente. Poi c'è questa questione dell'età pensionabile, ma è incredibile che si rinvii al 2020 la questione delle pensioni delle donne. Per le donne, poi in ogni caso, se pensiamo che l'Australia due anni fa in un giorno in un voto bipartisan o bipartisan ha votato laburisti e conservatori l'elevazione da 63 a 67 anni della pensione, quelle sono manovre, queste cose qui sono pannicelli caldi, quindi diciamo poi purtroppo questo discorso dell'IVA andrà fatto, perché bisogna passare dalla tassazione del lavoro e delle imprese e delle persone ai consumi. Non dobbiamo più essere i primi consumatori di champagne al mondo, i primi importatori. Quindi noi siamo, è vero, siamo i primi importatori di champagne al mondo. Un po' di riflessione sul problema dei consumi e soprattutto delle nostre rendite finanziarie, senza colpire naturalmente i piccoli risparmiatori, eccetera, eccetera, va senz'altro fatto. Ecco, l'obiezione, mi faccia difendere il governo, l'obiezione poteva essere la seguente: se si fosse fatta una manovra forte adesso con un paese che ancora stenta a uscire dalla crisi, andavamo a penalizzare definitivamente i consumi. I commercianti dicono, la Confcommercio dice l'IVA in aumento penalizzava i consumi interni. Insomma, si è preferito aspettare, questo se voglio fare l'avvocato difensore del governo, aspettare che il paese torni a crescere in maniera più consistente. La sua risposta dopo il traffico? La mia risposta è molto semplice: nessun paese può riprendere la crescita con questo carico fiscale, quindi bisogna immediatamente abbassare il carico fiscale. Non è una questione di aliquide, ma bisogna avere il coraggio, insomma, la Thatcher e Reagan, che poi hanno sbagliato, che hanno continuato per decenni una politica che va fatta come shock, hanno abbassato le tasse proprio nei momenti in cui la crisi non c'era. Ecco, quindi questo bisogna farlo, bisogna assumersi il coraggio politico di infondere a questo benedetto paese uno shock. E lo shock non può che venire da una detassazione radicale. Ecco, però la Thatcher e Reagan non avevano il 120% del debito sul PIL come abbiamo noi, professor Sapelli, e non avevano nemmeno le agenzie di rating con questi chiari di luna a livello europeo pronte ad abbassarti il voto se non viene garantita la tenuta dei conti pubblici. Vorrei una risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Allora, professor Sapelli, Reagan e Thatcher, tutto bene, noi abbiamo un debito che è il 120% del PIL e c'è una situazione in Europa per cui al primo stormir di fronte sul fronte dei conti pubblici arrivano le agenzie di rating, arrivano i mercati ad abbattere. Dunque, in primo luogo sulla questione qui del debito pubblico non si può dimenticare che il governo deve assumere un'iniziativa decisa verso l'Europa, e così si riflette anche sulle agenzie di rating. Bisogna rinegoziare il trattato di Maastricht e togliere dal debito le spese che vanno in investimenti infrastrutturali, questa è la prima cosa da fare. Per quanto riguarda le agenzie di rating, e qui insomma, bisogna ricordare che queste nascono nel 1907 quando c'è la crisi economica mondiale, sono agenzie indipendenti all'inizio, poi via via vengono sempre più conquistate da coloro che dovrebbero controllare, banche d'affari, gruppi visibili e invisibili del grande capitale finanziario. Naturalmente ci vorrebbe un accordo internazionale per eliminarle. Eliminarle? Beh, sì. Allora, senta cosa ci ha detto lunedì mattina Jean-Paul Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi, che appunto insegna economia internazionale alla Louis di Roma e all'Istituto di Studi Politici di Parigi, consulente di Sarkozy e anche del governo Berlusconi, sulle agenzie di rating. Le agenzie di rating, dopo aver rovinati i piccoli risparmiatori con la crisi finanziaria, adesso provano di rovinare i lavoratori, perché le agenzie di rating forzano i governi ad avere politiche fiscali più rigorose di quelle che si devono fare. Se le agenzie di rating erano responsabili, allora un po' di danno che hanno fatto devono pagarlo, ma non è stato il caso fino ad oggi e continuano a fare danni più grossi. Allora non possiamo accettare questo. È la ragione della mia rabbia, bisogna cambiare.

chi deve dare però i giudizi ai governi? Perché insomma da qualche parte... Nessuno. Ma come nessuno? La Grecia ce l'ha beccata... Ma nessuno, abbia pazienza, Risoni, abbia pazienza, ma i greci per 10 anni hanno falsificato i conti all'Europa. Lei può sostenere che c'era qualcuno che non se n'era accorto? Beh, a noi i greci ci hanno raccontato che tutti lo sapevano in Grecia. Ma tutti lo sapevano a Bruxelles, abbia pazienza. Ma chi deve giudicare i governi? Gli elettori devono essere i giudici dei governi. Ma da quando è mondo che c'è qualche atti? Ma chi ha dato questo potere a queste persone di giudicare i governi dal punto di vista economico? È un nuovo panopticum, è il trionfo dell'illuminismo economicistico. Ma chi sono questi qui? Dio? Allora, no, non sono Dio, nel senso che Fitch è posseduta da 2 azionisti, il gruppo francese Finmalke e la società editoriale Hearst. Moody's sono i fondi di investimento americani, quindi Berkshire Hathaway, del finanziere Warren Buffett, che è uno che vive appunto investendo. Bravo. Uno che appunto se ne intende. Certo. Ecco, il 13,5% di Moody's è suo, poi Fidelity Management e Capital Research con il 10%, e poi BlackRock, State Street e Vanguard. Standard & Poor's è posseduta da McGraw Hill, che dentro ha come soci molti dei soci anche di Moody's. Fondo Capital World Investors, poi BlackRock, Vanguard, Fidelity Management, State Street e Capital Research. Quindi lei è per l'abolizione totale delle agenzie? Totale, non servono. Scusi, abbiamo costruito nell'Ottocento uno splendido capitalismo. E fino agli anni 50, quando questi non contavano, fino agli anni 70, quando non contavano nulla, abbiamo creato una grande società industriale, abbiamo liberato centinaia di milioni dalla fame. Abbiamo dato credito a tutto il mondo, e che cosa sono servite gli agenzie di dati? Adesso, se è vero quello che dice il collega, insomma, non è poi diciamo professore, ma diciamo così, non insomma, lo studioso. Non è proprio amore tra voi due, dai. Vabbè. Lo studioso Fitoussi, come dice lo studioso Fitoussi, se è vero quello che dice, bisogna trarne le conseguenze. Se sono così peccaminosi, traiamo le conseguenze. Perché mettersi lì a fare i vigili urbani e a dare le multe alle agenzie di rating, scusi. Quindi lei è per un'iniziativa a livello ONU proprio, chiesta dal... Sì, la rivista OCSE ONU, come si chiede, diciamo, in questi casi, nel caso di crisi internazionale. Beh, il ragionamento non è... Con quello che è successo sui mercati è un ragionamento che mi... Sapelli, lei ritorni in volo, poi la richiameremo quando avremo... volo sulle nuvole dell'apocalisse. Lei, quando avremo nuove eresie da diffondere, la richiameremo. Per ora è tutto, grazie a Giulio Sapelli e da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi anche questa settimana per l'assistenza in redazione. Un augurio a tutti voi che andiate via o che lavoriate di passare un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione. Si sente.